Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Three gypsies came to our hall door, and all but they sang a bonny ole. They sang so sweet and too complete that the stole the height of our lady. For she come tripping down the stairs, her maidens to be for a row. And when they saw her wheel fair face, they throwed their spell out o'er her own. When her good lord came home that night, he was asking for his lady, oh. The answers the servants gave to him, she's a war with a gypsy laddies, oh. Gee saddle to me, my bonny, bonny black, my brunette's ne'er so speedy, oh, that I may go riding this long summer day in the search of my taruledi. For it's he rode east and he rode west, and he rode through Strathbogio, and there he made a gay old man that was coming through Strathbogio. For it's dead you come east, or a dead you come west, or dead you come through Strathbogio, or a dead ye see a gay lady, she was falling three gypsy laddies, oh. For it's I've come east and I've come west, and I've come through Strathbogio, and the bonniest lady that e'er I saw, she was falling three gypsy laddies, oh. For the very last night that I crossed this river, I had dukes and lords to attend me, oh. But this night I must put and my warm feet and wide, and the gypsies widen before me, oh. Last night I lay in a good feather bed, my own weird lord beside me, oh. But this night I must lie in a corn barn, and the gypsies lying arm your. For it's well you give up your houses and your lands, and well you give up your baby, and will you give up your own wedded lord, and keep following the gypsy laddies, oh. For it's I'll give up my houses and my lands, and I'll give up my baby, oh. And I'll give up my own wedded lord, and keep following the gypsy laddies, oh. They are seven brothers of us all. We all are wondrous bonny, oh. And this very night we all shall be hanged for the stealing of the Earl's lady. Buonasera, bentornati qui a Ethno Chic. Buonasera. Ciao Stefano. Ciao Vladimiro. Siamo arrivati all'ennesima puntata sul canto narrativo, in cui c'era talmente tante cose da dire, di parlare dal punto di vista della ballata, diffusione della ballata nel mondo anglo-americano, che sinceramente non è stato difficile trovare degli ascolti e come dire. Infatti Vladimiro forse salterà fuori una puntata post natalizia, certo. Non lo so. Vladimiro mi ha appena dato anche un volume con la notazione di tutte le musiche raccolte da Alan Lomax. E non potevamo che partire proprio da lui. Questo grande texano ricercatore che ha dato una grande spinta alla ricerca sulle tradizioni popolari. Lui, che era figlio, anche suo padre aveva fatto delle ricerche sulle musiche dei cowboys proprio degli Stati Uniti, non nel periodo in cui i cowboy erano quei personaggi mitizzati dai film John di Wayne. John Ford, eccetera, ma quando i cowboy ormai avevano un po' esaurito la loro funzione e trascinavano la loro esistenza, come dire, un po' dimenticati. E Lomax invece, proprio per la Library of Congress, inizia poi a fare non solo ricerche sulle tradizioni musicali degli Stati Uniti, andando a pescare personaggi come Libelli o altri personaggi quelli che poi hanno fatto conoscere il blues, insomma, il blues di cui poi forse ascolteremo anche qualcosa. E poi da lì, nel secondo dopoguerra, si è spostato in Europa, non a caso, perché diciamo Anna Lomax era una persona comunque con certe idee molto, era un democratico con idee molto avanzate, insomma, cioè non era uno, insomma, si direbbe qui di sinistra. E come sapete, insomma, negli anni 50 c'è stato il maccartismo, e quindi chiunque era sospettato di essere un po' troppo spostato a sinistra veniva, insomma, messo in condizioni di non lavorare o comunque di essere discriminato. E quindi lui così ne approfitta il fatto che sta lavorando alle ricerche sulle musiche popolari per farsi mandare in Europa, dove il clima è un pochino più tranquillo, e lì si dedica appunto alle ricerche in Gran Bretagna, in Spagna, in Italia soprattutto, ma anche in altri paesi. Trascrive, addirittura registra nel 56 Violetta Parra, che sta per dire che veramente lui che sta a Londra, e abbiamo veramente registrazioni di tutti i tipi. E soprattutto è un personaggio che, con la sua curiosità, con la sua carica, il suo essere così, spinge poi altre persone a seguire il suo esempio. E naturalmente tutto questo non sarebbe possibile senza comunque una tradizione o comunque dei personaggi che portano in qualche modo il ricordo o comunque la testimonianza di una tradizione più o meno viva. In questo caso, per esempio, il primo esempio che mi abbiamo fatto sentire era Jenny Robertson, questa straordinaria cantante scozzese di questa... lei era una tinker. I tinker sono dei girovaghi, sono dei... In Scozia sono, come dire, delle specie di gitani, si chiamano così, tinkers, Si vantano di essere discendenti della famiglia Stuart che regnò in Scozia, e di questo sono molto orgogliosi. L'orgoglio scozzese, come dire, rinomato. Chiaramente portano, insomma, hanno anche una certa stile di conservazione, come spesso fanno, come nella migliore tradizione, come dire, tengono e interpretano questi repertori tradizionali loro e insomma, le popolazioni che stanno vicine. E quindi questa grande cantante di questa straordinaria cantante Jenny Robertson, che è stata studiata a lungo, insomma, ed è stata anche come dire, uno dei punti di riferimento di quello che poi sarà il Folk Music Revival, che è così noto in Gran Bretagna, promosso dai vari Ewan McCall, Peggy Seeger, Peter Kennedy, Hamish Henderson, insomma, tutti questi personaggi che erano a vario tipo studiosi, ma anche interpreti della musica popolare, ma avevano appunto come riferimento i cantanti tradizionali come Jenny Robertson, che loro andavano a registrare e che magari poi facevano anche, portavano a fare dei concerti. E di questo abbiamo sentito la ballata che si chiama The Gypsy Lady, oppure Gypsy Davy, l'ho visto. Questo David Lo Zingaro praticamente è il personaggio della ballata, e non è nient'altro che quella ballata che è nota in Italia come il Moro Saracino. Il senso è questo, che c'è questa moglie che scappa con lo straniero, in pratica, no? E in Italia il Moro Saracino, invece insomma nel mondo anglosassone è questo Gypsy Davy, David Lo Zingaro. E poi quando insomma nella ballata il marito va alla ricerca della moglie, quando lo trova gli dice torna, ci sono i figli, insomma cerca di convincerla, lei dice no, io sto bene qui, sto, perché è bellissimo il significato, dice perché sono libera, insomma perché ho trovato insomma la mia libertà. È un inno alla libertà, e nel proseguire in questo percorso non possiamo che ascoltare proprio una versione sempre di questa ballata con un'altra melodia, ma stavolta non dalla Scozia, ma direttamente dagli Stati Uniti, ed è Woody Guthrie. It is late last night when the boss come home, is asking about his lady. The only answer he received, she's gone with the Gypsy Davy, gone with the Gypsy Davy. Go saddle for me my buckskin horse and $100 saddle. Point out to me their wagon tracks, and after them I'll travel, after them I'll ride. Well, I had not rode till the midnight moon, till I saw the campfire gleaming. I heard the notes of the big guitar and the voice of the gypsy singing that song of the gypsy day. There in the light of the campling fire, saw her fair face beaming, her heart in tune with the big guitar, and the voice of the gypsy singing that song of the gypsy day. Have you forsaken your house and home? Have you forsaken your baby? Have you forsaken your husband dear to go with the Gypsy Davy and sing with the Gypsy Davy that song of the Gypsy Davy? Yes, I've forsaken my husband dear to go with the Gypsy Davy, and I've forsaken my mansion high, but not my blue-eyed baby, not my blue-eyed baby. She smiled to leave her husband dear and go with the Gypsy Davy, but the tears come trickling down her cheeks to think of the blue-eyed baby, pretty little blue-eyed babe. Take off your buckskin gloves made of Spanish leather. Give to me your lily-white hand, we'll ride back home together, and we'll ride home again. No, I won't take off my buckskin gloves, they're made of Spanish leather. I'll go my way from day to day and sing with the Gypsy Davy, that song of the Gypsy Davy, that song of the Gypsy Davy, that song of the Gypsy Davy. E questo quindi era Woody Guthrie, che penso che non ha bisogno di presentazioni, perché insomma è sicuramente stato un altro di questi personaggi che, girando per le campagne, per tutto, così ha cantato un po' quella che erano l'essenza degli Stati Uniti, gli Stati Uniti più dimenticati, e quindi si è imbattuto chiaramente anche questi repertori che arrivavano da... La forza di gravità... sempre contro, e si sentiva questo colore degli Stati Uniti che abbiamo in mente anche dai suoni e dalla voce dell'autore che abbiamo ascoltato. E adesso Vladimiro mi ha fatto digitare, abbiamo trovato Mississippi John Hart, una registrazione del 1928. Che cosa ci dici, Vladimiro, di questo bluesman? Allora, volevo farvi sentire appunto vari ascolti, sempre da varie parti di questo mondo anglosassone, insomma, per testimoniare come, senza seguire un filo cronologico, ma saltando un po' di palla in frasca per dare appunto un'idea di come si intrecciano repertori tradizionali, oggi, ieri, contesti differenti. In questo caso siamo proprio all'interno di quello che si può parlare contesto afroamericano, appunto del sud, dove nasce appunto il blues e poi nascerà il jazz, e qui abbiamo uno dei principali esponenti di questo, come dire, di primi personaggi importanti, insomma, che restano nella storia delle origini diciamo, possiamo dire, del mercato anche di dischi, nel senso che chiaramente questi personaggi come appunto Mississippi John Hart, piuttosto che Lee Belly e che altri, hanno un po' segnato il fatto di un successo anche commerciale di questi materiali tradizionali, no? E quindi queste ballate non sono state più legate solo a un contesto rurale, ma sono diventate un po', come dire, dei pezzi anche registrati su dischi e così. E questa è un'altra ballata molto popolare, che è quella di Frankie and Albert, e la sentiamo appunto in questa versione di Mississippi John Hart. Frankie was a good girl, everybody know. She paid $100 for Al one suit of clothes. He's a man, and he done her wrong. Didn't go to be gone long. She peeped through, she holded the door, spied Albert in Alice's arm. He's my man, and he done me wrong. Frankie called Albert. Albert says, I don't care. If you don't come to the woman you love, gonna haul you out of here. You're my man, and you done me wrong. Frankie shot Albert, and she shot him 3 or 4 times. Let's throw back, I'll smoke him a gun, let him see his Albert dying. He's my man, and he done me wrong. Frankie the judge walked down the stand, they walked out side to side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified for killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie say, I done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. I ain't gonna tell no story, and I ain't gonna tell no lies. Well, I was passed about an hour ago, the girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong. Abbiamo ascoltato la polvere del 78 giri e grazie anche a chi posta su YouTube questi audio antichi che ci rendono proprio l'idea. Poi rende più facile, poi la possibilità di andare a rivedere queste cose senza dover riscoprire o ritirare fuori i vecchi vinili o i vecchi 78 giri. Chiaramente la cosa interessante appunto che nel mondo anglosassone che da un lato appunto si, per esempio in Inghilterra, le Scozia, così il vecchio mondo in cui queste tradizioni erano legate, insomma nel Novecento era già in parte scomparso e alcune cose anche nella memoria andavano perdendosi pian piano. Però in qualche modo ha queste, come dire, questo mondo delle ballate ha trovato nuova vita, nuove strade, nuovi eroi, nuovi fuorilegge da cantare, insomma, tenendo presente che addirittura noi abbiamo un riferimento, una raccolta del Settecento, se non ricordo male, sì, dovrebbe essere il XVIII secolo, di questo Francis Child, che aveva raccolto e classificato le ballate per tipologia in diversi volumi, mi pare 5 volumi a memoria, così, e proprio con tutte le cose. Ed è un riferimento che spesso si usa quando qualcuno o fa una pubblicazione con registrazioni tradizionali oppure che canta queste con riferimento al numero Child, il numero della ballata, per, come dire, come se fosse un dizionario di riferimento, no? Quindi poi il fervore enciclopedico post-illuministico ha preso la anche... cosa curiosa è che poi queste ballate del Child quando poi gli studiosi andarono a ricercarle più di un secolo dopo, ci fu Cecil Sharp in Inghilterra a fare queste raccolte, poi in quel periodo c'era anche l'interesse dei compositori come Vaughan Williams e Britten per le loro tradizioni, ma anche quando andarono nei Monti Appalachi negli Stati Uniti a fare le registrazioni trovarono delle versioni molto che avevano per l'istinto conservativo di chi era emigrato appunto negli Stati Uniti, avevano il testo e le varianti erano più simili a quelle del Child che non a quelle di Sharp o quelle che erano registrate in quegli anni che in Inghilterra. E è curioso vedere come appunto con questo contesto appunto afroamericano vediamo è utilizzato con un linguaggio musicale differente però sempre quella storia, oppure in alcuni casi i personaggi vengono riattualizzati, insomma, ricontestualizzati in chiave moderna, un po' come quelle opere che si fanno gli allestimenti in chiave moderna, piuttosto che capita spesso, e in qualche modo anche nel mondo popolare sortiamo queste cose. Qui andiamo a sentire, tanto per far capire come questa storia, questa cultura, insomma, è ancora adesso presente, andiamo a sentire questa bellissima versione, secondo me, di Barbara Allen, che è un'altra ballata che risale, insomma, ci sono testimonianze del XVII secolo, ma sicuramente più antica, che è una ballata molto popolare nella tradizione anglofona, un po' riportata in un sacco di contesti di libri di canti, song books del XVII-XVIII secolo, e ci sono veramente numerose versioni, insomma, di questa ballata registrata da Bob Dylan o Doris Day, e, per dire. E l'abbiamo presa questa versione, che è da Richmond nel Kentucky, registrata nel marzo 2011 da questo bellissimo libro con 4 CD di Alessandro Portelli, che è uno studioso italiano che si è occupato però di anche, mi pare che abbia insegnato all'università proprio storia della cultura americana, insomma è un esperto, il quale Portelli ha fatto questo bellissimo volume che si chiama We Shall Not Be Moved, Voci e musica dagli Stati Uniti 1969-2018 per l'editrice Squilibri, che insomma è una casa editrice di riferimento per tutti quelli che si occupano di tradizioni musicali e che consigliamo sicuramente, lo stiamo iniziando a leggere, a 4 CD allegati, e magari chissà contatteremo anche Portelli perché ci piacerebbe avere insomma la sua testimonianza qui in radio. Andiamo subito a sentire questa Barbara Allen e poi diremo qualcosa in più, appunto abbiamo detto una registrazione del 2011. Made every year. sweet Barbarella. That's a long time. Questa versione Barbara Allen, registrata a questo congresso di studi appalachiani, delle tradizioni appalachiane, appunto nel Kentucky, a Richmond. È registrata a Portelli nel 2011, ma lui testimonia appunto di averla registrato anche poi in Irlanda nel 2012, per dire come questi mondi sono molto permeabili, anche perché poi ad esempio Donna Lamb, che cantava qui, è appunto... risente molto, si sente nello stile anche del country, chiaramente ormai sono quasi 100 anni che girano registrazioni di questo tipo di musica, perché comunque tra il mercato discografico è nato negli Stati Uniti, chiaramente, e da quelle parti sono le prime cose che sono andate a registrare, sono queste cose in pratica, e anche a stampare, perché la comunità, insomma, afroamericana era importante e chiaramente era anche un mercato molto interessante per le case discografiche, che creavano delle ne abbiamo parlato anche l'anno scorso quando parlavamo di 78 giri, creavano delle etichette secondarie all'interno dei grossi nomi, per appunto pubblicare queste che venivano chiamate race records, le registrazioni delle varie etnie, ecco, per così dire. E quindi in qualche modo dicevamo come questi repertori si adattano alla contemporaneità, no? Trovano un nuovo vivo, a volte nascono anche delle ballate nuove, per esempio c'è un bellissimo libro, naturalmente fuori stampa, di Roberto Lady, si chiama Eroi e ballate nella tradizione popolare americana, in cui appunto si ripercorreva praticamente la storia degli Stati Uniti attraverso queste ballate, che parlavano di questi personaggi che potevano essere da Davy Crockett a Montcalm, piuttosto che appunto Pat Garrett e Billy the Kid, di cui non a caso Bob Dylan, che è stato un po' l'esponente più importante che è venuto fuori poi dal prima come folk singer, poi insomma come autore, come cantautore, ha scritto proprio le musiche del film omonimo, no? Cui si ripercorrevano questo, e lui fa in quel film fa proprio il menestrello, insomma, quello che cantava, poi canta le canzoni sue nello stile che si usavano da decenni, insomma. E tra i tanti eroi, cioè, appunto, non poteva che mancare un eroe che guida la sua fiera macchina a vapore, no? Locomotiva. John Henry, sì, più che altro ha a che fare, certo, col metallo, col lead, col piombo e con il martello. Come un fabbro, il signor John Henry usava il martello per assicurare i binari al loro percorso. Aveva anche una spalla che si chiamava Shaker. Lo Shaker era l'uomo che teneva il chiodo che poi assicurava il binario al percorso, e John Henry in questo caso era quello che dava le martellate. Qui si succedono diverse strofe che parlano addirittura della donna di John Henry che continua a fare il suo lavoro. Il tutto si esaurisce nel tempo, nel percorso della ballata, in una gara di martellate, in cui John Henry alla fine vince come martellatore, passatemi il termine, martellatore supremo, che però muore per troppa fatica, praticamente. Qui abbiamo l'immagine, ovviamente, dei lavori forzati in qualche modo, no? Se vogliamo applicarlo, sì, alla contemporaneità. Sì, anche se in qualche modo lì, insomma, John Henry è anche la dimostrazione della fatica di comunque dei lavoratori americani, certo, che poi sono, come diceva Woody Guthrie nella sua famosa più canzone, America per Woody Guthrie, quando canta l'America canta appunto l'America di queste persone, insomma, non certo l'America dei bosses. Andiamo a sentire quindi questo John Henry. He was a baby sitting on his mammy's knee. Picked up a hammer in his little right hand, said, "Hammer be the death of me, me, me. Hammer be the death of Here will be the death of me, me, me. Here will be the death of me. Well, as some said, he's born down in Texas. Some said he's born up in Maine. I just said he was a Louisiana man, beater of a steel driving chain gang. Leader of a steel driving gang. Leader of a steel driving chain gang. Leader of a steel driving gang. Now the captain said to John Henry, what did he say? I'm gonna bring my steam drill round. Gonna bring my steam drill out on this job. And I'm gonna walk that steel on down, down, down. Walk that steel on down. I'm gonna walk that steel on down, down, down. I'm gonna walk that steel on down. John Henry said to the captain, what did you say? Bring your steam drill around. You can bring your steam drill out on the job. And I'm gonna beat your steam drill down, down, down. Beat your steam drill down. Gonna beat your steam drill down, yes, I am. Gonna beat your steam drill down. John Henry said to his shaker, shaker, you had better pray. If you miss your 6 foot of steel, tomorrow'll be your burying day, Mr. Shaker. Tomorrow'll be your burying day. Now the shaker said to John Henry, well, a man ain't nothing but a man. I'm throwing 100 pounds from my hips on down, doing all that any man can, doing all that any man can, doing all that any man can, I'm doing all that. Abbiamo ascoltato John Henry. Devo correggere quello che ho detto prima. John Henry, questa figura semi-mitologica, in realtà non martellava per assicurare i binari, come ho detto prima, al loro percorso, ma faceva i buchi. Sempre aiutato da questa figura dello shaker, faceva i buchi sull'entrata dei tunnel, no? Per ospitare le cariche di esplosivo che poi avrebbero permesso di fare i tunnel nelle montagne. E sì, volevo solo correggere questo. Dico ancora una cosa, visto che è scritta in questo libro, questa ballata, alcuni frammenti di questa ballata sono tratti da Lass of Roch Royal, che è una ballata scozzese. Lo dico solo per far capire per l'ennesima volta che ci sono questi intrecci. Quindi sempre in questi intrecci andiamo a sentirci da un interprete moderno, insomma, Martin Carty, che è stato un altro esponente importante del folk revival britannico, ancora vivente, una ballata molto famosa, soprattutto perché Simon & Garfunkel, come dire, ne hanno fatto una versione molto conosciuta, e che sentirete che questo il brano vi facciamo la versione di Scarborough Fair, che vi facciamo sentire questa storia di questi amanti, di queste prove d'amore, che è appunto originariamente la ballata, il tema si chiama appunto The Childhood Elfling Knight, quindi il cavaliere elfo che fa una serie di mette una serie di prove alla ragazza per vedere se lo ama, e chiaramente ci sono anche le parole magiche nel ritornello, insomma è proprio una ballata legata fortemente all'elemento magico. Sentirete che in questa versione praticamente abbiamo già un po' l'arrangiamento che hanno utilizzato di fatto Simon & Garfunkel, però con maggiore successo, e quindi andiamo a sentire sicuramente Martin Carty, perché gli è dovuta tutta, insomma, questo ascolto. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and time. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme, without no seam nor a needlework. And then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt water and the sea strand. And then she'll be a true love of mine. Tell her to plow it with a lamb's horn, parsley, sage, rosemary, and thyme, and to sow it all o'er with one peppercorn. And then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle of leather, parsley, sage, rosemary, and thyme, and to thresh it all out with a bunch of heather. And then she'll be a true love of mine. Are you going Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Come da previsione, anche qualche piccolo disguido e incidente, qui ci scusiamo, però alla fine appunto tante robe per selezionare, abbiamo deciso di fare una puntata un po', insomma, buttare come al solito degli spunti e non fare una cosa proprio didascalica. Tempo permettendo. Quindi giustamente così, per cui avremmo potuto mettere Casey Jones, quella della locomotiva, la ballata, certo, piuttosto che John Henry, però insomma abbiamo potuto dare quell'idea lì. Di questo tipo di varietà di temi, di influenze musicali, e come dire, abbiamo alla fine dedicato un po' più di spazio forse agli Stati Uniti, e la prossima volta invece magari staremo più sul continente, quindi tra Gran Bretagna e Irlanda, ripartiremo un po' da lì. Quindi la prossima volta sarà una puntata dedicata esclusivamente al mondo britannico, e dopo di cui abbiamo ascoltato Martin Carty, ma adesso vi lasceremo con l'ultimo esempio che appunto abbiamo parlato del folk music revival in Gran Bretagna, e questo è uno forse dei gruppi più interessanti che è scaturito da, che è London Critics Group, qui registrato al Teatro Lirico di Milano dal vivo nel 1969-1970, quindi più o meno 50 anni fa, da Roberto Lady. C'erano Ewan McCall, Peggy Seeger, Sandra Kerr e altri personaggi, e qui in quest'altra ballata che si chiama Sweet Trinity, e con la quale vi salutiamo, vi diamo appuntamento all'anno prossimo. Buon anno, buone feste. Buone feste a tutti. In the Netherlands, and it is called Trinity, and was taken by the false Galilee, sailing in the lowlands low. Oh, is there never a seaman bold in the Netherlands that will go and take the false Galilee and so redeem the sweet Trinity, sailing in the lowlands low? Then up and spoke the little ship's boy in the Netherlands, oh master, master, what will you give me? And I will take the false Galilee, sailing in the lowlands low. I'll give you gold and I'll give you fee in the Netherlands. I'll give you gold and I'll give you fee, and me eldest daughter, your wife, she shall be sailing in the lowlands low. He set his breast and away he did swim in the Netherlands. He set his breast and away he did swim until he came to the false Galilee, sailing in the lowlands low. And some were at cards and some were at dice in the Netherlands. And some were at cards and some were at dice until the salt water flashed in their eyes, sailing in the lowlands low.